24 mattino estate con Irene Zerbini. E volge al termine anche questo ciclo. Domani l'ultima puntata di 24 mattino estate. Da lunedì ritornerà Bianco Nero con Alessandro Milan. Insieme a noi oggi Giulia Crivelli per la lettura dei giornali. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno Irene, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Oggi noi alle 8.30 parleremo di lotta al caporalato. Attenzione, non è un fenomeno solo meridionale, infatti si registra sempre di più, complice la crisi, complice la disattenzione, anche in settori come l'edilizia e l'allevamento del nord. Stiamo parlando della Franciacorta, per esempio, in provincia di Brescia, stiamo parlando di Trento, ma è ripartita dalla Puglia con un concerto di Eugenio Bennato ieri, così una manifestazione per sensibilizzare su quanto sta succedendo l'agitazione, perché per la prima volta e gli braccianti sfruttati dai caporali hanno incrociato le braccia, non ci stanno più a coltivare, a raccogliere, scusate, cassoni da 250 kg per essere pagati 2,50 euro a cassone, lasciare che tutto il guadagno vada nelle tasche di questi caporali che non esitano a usare intimidazioni e violenza, tra l'altro, per piegare tutti alla propria volontà. Oggi racconteremo una storia eccezionale di un ingegnere del Politecnico di Torino, quasi ingegnere, gli manca un esame per terminare, che si è ritrovato in questi campi della raccolta di pomodori a Nardò in provincia di Lecce e ha organizzato la protesta. Oggi però andremo ad aggiornarvi continuamente sulla situazione in Libia, dove sono stati rapiti 4 giornalisti italiani. In primo piano. E naturalmente Giulia, anche in questa rassegna stampa, grande risalto a questa situazione dei 4 giornalisti, drammatica, si sa pochissimo cosa racconta per esempio Ferruccio De Bortoli sul Corriere della Sera, 2 sono del giornale di Via Solferino. Sì, Elisabetta Rosaspina e Giuseppe Sarcina sono i 2 giornalisti del Corriere della Sera insieme a Domenico Quirico della Stampa e Claudio Monaci di Avvenire, che sono appunto stati rapiti. Perciò Ferruccio De Bortoli, che quando il giornale è andato in stampa ancora non aveva ricevuto l'ultima telefonata, che era in un certo senso rassicurante perché i giornalisti sono vivi, hanno ricevuto cibo e acqua e il console italiano ha mostrato un cautissimo ottimismo da Bengasi. Appunto Ferruccio De Bortoli cerca, oltre a naturalmente esprimere la sua personale angoscia e ansia, di spiegare ancora una volta quali sono i rischi di un mestiere che a volte vengono un po' sottovalutati o forse se non altro poco conosciuti per quanto riguarda quelli che ancora oggi sono i giornalisti che vanno in zona di guerra. E naturalmente ti seguiremo fino al termine di questa rassegna stampa che apre con questi avvenimenti drammatici. Stamattina c'è proprio un inciampo continuo sulle chielici e ci risentiremo tra pochissimo. Bene Irene, appunto poi naturalmente questa è una vicenda che, come tutte le vicende di stretta cronaca, ha bisogno di aggiornamenti continui, quindi è più utile appunto a volte seguire gli aggiornamenti che non leggere queste notizie sui giornali, dove però ci sono le analisi e i commenti. Quindi partiamo dal Sole 24 Ore, che ha su quello che noi in gergo chiamiamo palchettone, cioè la parte superiore, la parte più alta della pagina, proprio sotto il nome del giornale, questa notizia. Il titolo è "Rapiti 4 giornalisti italiani dai fedeli del Rais", e poi il commento del console che il Sole 24 Ore è riuscito a mettere, perché è la seconda edizione del Sole 24 Ore, chiude a 1 di notte, era appunto la notizia che è venuta dal console italiano a Bengasi, che ha detto: sono in una casa a Tripoli, stanno bene. Dal Sole 24 Ore poi naturalmente su questa notizia torneremo, soprattutto prendendola dai giornali a cui appartengono i 4 giornalisti rapiti. Il Sole 24 Ore però ha l'apertura vera e propria sulla manovra, gli aggiornamenti sulla manovra. Ieri è stato il giorno in cui si è concretizzato, diciamo, il primo cambiamento importante, che è quello di attenuare la super IRPEF, la cosiddetta tassa di solidarietà, e poi invece di aumentare l'aliquota IVA. C'è stato questo vertice del PDL guidato da Angelino Alfano, il segretario del PDL, che ha messo a punto e ha anticipato quelli che potrebbero essere alcuni cambiamenti. Ci sono ancora 72 ore per metterli a punto prima che la manovra arrivi in Parlamento, dopodiché maggioranza e opposizione dovranno appunto confrontarsi sulle proposte di miglioramento della manovra. E sì, il Sole 24 Ore spiega anche che per ora c'è un netto no a un eventuale condono, altra ipotesi di cui si era parlata, di cui si era parlato nei giorni scorsi, altra ipotesi di cambiamento della manovra annunciata a Ferragosto da Berlusconi. E poi c'è un'altra ipotesi che si fa strada, che è quella di mettere un tetto agli stipendi dei manager pubblici. Tantissimi gli approfondimenti sulla manovra e sulla crisi internazionale sul Sole 24 Ore, come sempre da ormai dall'inizio di agosto. Vi segnalo oggi l'analisi di Maximilian Cellino, la lezione antica dell'oro: non esistono porti sicuri. Questa fa parte della serie La bussola per il risparmiatore. Se ne è parlato molto nei giorni scorsi, anche sul fatto che per esempio le banche e le assicurazioni, che erano considerate titoli sicuri, appunto porti sicuri, non lo sono più così tanto. Si è parlato del fatto che Google ha una capitalizzazione che è ormai superiore a quella di tutte le banche italiane, e quindi Maximilian Cellino torna su questo. C'è poi un approfondimento sugli eurobond, questa ipotesi di titoli di Stato europei, che però per ora è stata bocciata dal vertice economico franco-tedesco di settimana scorsa tra Angela Merkel e Nicolas Sarkozy. Il Sole 24 Ore l'ha rilanciata con forza nei giorni scorsi con un articolo di Romano Prodi, ex premier italiano, e dell'economista Alberto Quadrio Curzio, e ora oggi c'è un commento di Francesco Caselli: quale solidarietà Unione Europea dai ricchi ai poveri. Vi segnalo poi dal Sole 24 Ore la notizia della manovra che anche il governo francese sta varando. Tutti i governi sono alle prese con questa crisi straordinaria e quindi con manovre straordinarie. Ieri Sarkozy ha annunciato una tassa del 3% per i super ricchi, che in Francia però non sono come in Italia considerati quelli con un reddito, ricordiamo, lordo di circa sopra i 100.000 euro, che vuol dire poi netto la metà, ma per i redditi oltre i 500.000 euro. E c'è l'articolo di Marco Mussanet, il corrispondente da Parigi del Sole 24 Ore. Se volete avere un'idea più dettagliata di questa tassa, vi consiglio Le Monde, che è un quotidiano del pomeriggio francese, facilmente acquistabile anche nelle edicole italiane, e che ha per proprio questo. Il titolo è: il governo decide una tassa eccezionale sui redditi molto alti. Vi segnalo anche, per così completezza, una cosa che mi colpisce sempre. Le Monde è un quotidiano che ha sì l'apertura su questa notizia, però poi gli approfondimenti li trovate a pagina 10 e 11, perché Le Monde, forse lo dice il titolo stesso, ha comunque tutte le pagine iniziali, in questo caso dalla 1 alla 9, dedicate alle questioni mondiali, e ovviamente in questi giorni è la Libia. Siccome di Libia parleremo molto, e soprattutto anche qui vi consiglio poi di seguire gli aggiornamenti dai radiogiornali o se volete su internet, anche sul sito di Radio 24, perché è una situazione appunto in costante evoluzione, però vi segnalo che oggi con il Sole 24 Ore c'è in edicola, a 9,99 euro in più rispetto al prezzo del quotidiano, il secondo volume dei grandi fotografi. Ve lo segnalo in particolare perché quello di oggi è il volume dedicato a Robert Capa, che è stato sicuramente uno dei più grandi fotografi di guerra della storia. Il volume ha in copertina uno degli scatti più celebri di Robert Capa, che risale al 5 settembre del 1936, durante la guerra di Spagna, la guerra civile spagnola. Lo scatto immortala un miliziano dell'esercito repubblicano proprio mentre viene colpito a morte. La citazione di Capa, che ricordo sempre, il grande fotografo diceva: la guerra è un inferno che gli uomini fabbricano da soli. Quella della Libia è sicuramente una guerra che dura da molti giorni, da molti mesi, senza parlare degli anni del regime di Gheddafi, un po' lontano dai riflettori. In questi giorni è tornata prepotentemente sotto i riflettori, e sicuramente di orrori sentiremo molto raccontare, e vedremo probabilmente anche. E sulla guerra in Libia, appunto, apre il Corriere della Sera una taglia sulla testa di Gheddafi. Questa è una delle notizie di cronaca. Ci sarebbe infatti una taglia di 1 milione di euro per la sua cattura, da vivo o da morto. Ma dal Corriere della Sera vi segnalo l'editoriale di Ferruccio De Bortoli, il direttore, si intitola "Guardateli negli occhi", e naturalmente riguarda i giornalisti rapiti. Due di questi quattro giornalisti sono inviati del Corriere della Sera: Elisabetta Rosa Spina e Giuseppe Sarcina, come dicevamo prima. Poi c'è Domenico Quirico della Stampa e Claudio Monici dell'Avvenire. Scrive Ferruccio De Bortoli: le notizie sono scarne e contraddittorie. Il Ministero degli Esteri, la cui unità di crisi si è prontamente attivata, ritiene che il sequestro si possa risolvere in breve, come quello dei colleghi stranieri tenuti in ostaggio per 5 giorni all'hotel Rixos di Tripoli e rilasciati nel momento in cui le sorti della guerra civile libica sono apparse irrimediabilmente segnate. Ma l'esperienza insegna, in Afghanistan come in Iraq, che questi sono i momenti peggiori di una guerra. Gli schieramenti si sfaldano in rivoli in cui la paura alimenta una violenza cieca. Si aggregano bande a caccia di ostaggi ridotti alla stregua di salvacondotti o merce di scambio. La vendetta e lo sciacallaggio sono le sole regole rimaste intatte fra corpi abbandonati e macerie. In questo scenario inquietante, i giornalisti sono al tempo stesso i bersagli più facili da colpire e gli ostaggi più utili da esibire. Ma i nostri colleghi sono armati solo degli strumenti della loro professione e soprattutto sono mossi dalla passione di scoprire e raccontare la realtà dei fatti. Forse questo, più del loro passaporto occidentale, li espone a ogni sorta di pericolo. Non vestono alcuna divisa, sono testimoni preziosi non combattenti, ascoltano le voci degli altri, tutte, anche dei nemici del loro paese, sul quale non esitano a scrivere verità scomode. Vi leggo poi le ultime righe dell'editoriale di Ferruccio De Bortoli. La speranza in ore di grande apprensione è che i sequestratori possano leggere ciò che scriviamo sui giornali, guardare le immagini trasmesse in queste ore, scorrere le notizie sul web e interrogare le loro coscienze, ritrovare quel senso di umanità che fa parte della storia delle loro genti. Siamo sicuri che guarderebbero con occhi diversi Elisabetta, Giuseppe, Domenico e Claudio, che di ostile non hanno nulla e di amichevole tutto. Forse l'hanno già fatto, noi lo speriamo con tutto il cuore. E aspettiamo naturalmente notizie ulteriori di cronaca, aggiornamenti. Anche ho visto anche il sito del Corriere della Sera, tra l'altro quasi intasato prima quando l'ho consultato, aggiorna su questa vicenda. In primo piano. Ancora buongiorno a tutti da Giulia Crivelli. Eravamo sulle prime pagine dei quotidiani, che sono dedicate sia all'evoluzione della situazione in Libia, dove il regime di Gheddafi sembra veramente giunto alla fine, anche se Gheddafi medesimo non si sa ancora dove sia, né sulla sua testa c'è una taglia da 1 milione di euro. E poi naturalmente la notizia che sono stati rapiti ieri 4 giornalisti italiani, 2 del Corriere della Sera, 1 della Stampa e 1 dell'Avvenire. E poi naturalmente abbiamo parlato di manovra, perché il fronte italiano è questo, quello della manovra annunciata a Ferragosto, che tra 2 giorni sarà in Parlamento. Dal Corriere della Sera abbiamo letto l'editoriale di Ferruccio De Bortoli, due appunto dei giornalisti, Elisabetta Rosa Spina e Giuseppe Sarcina, sono del Corriere della Sera. E dal Sole 24 Ore vi segnalo l'analisi di Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, inviato spesso di guerra in tutti i teatri di guerra principali degli ultimi 20 anni. La sua analisi si intitola "L'anarchia da fine dell'impero cresce i rischi del mestiere", che è un po' quello di cui parlava anche Ferruccio De Bortoli. Come finisce un rais? Chiede Alberto Negri. La liquidazione di un leader e la fine di un regime a volte si sovrappongono, in altri casi non coincidono. Sono i rischi del mestiere di giornalista che non cambiano. 2 colleghi francesi feriti da pallottole vaganti, poi è venuto il rapimento di 4 italiani, Elisabetta Rosa Spina, Domenico Quirico, Giuseppe Sarcina e Claudio Monici, che nel novembre 2001, soltanto per una coincidenza, non viaggiò sulla stessa auto con Maria Grazia Cutuli e Julio Fuentes, trucidati dai talebani tra Kabul e Jalalabad. Sicuramente ricorderete questa vicenda, appunto l'inviata del Sole 24 Ore del Corriere della Sera e il suo cameraman Julio Fuentes, che furono appunto trucidati dai talebani tra Kabul e Jalalabad. Prosegue Alberto Negri: devono tener duro e sperare che i lealisti di Gheddafi abbiano maggiore pietà che con il loro autista, ucciso sembra a bruciapelo. Anche questo accade nell'anarchia sanguinosa e criminale che segue il crollo di un regime. È avvenuto in Somalia con la fuga di Siad Barre, in Afghanistan dopo i talebani del Mullah Omar e nell'Iraq occupato dagli americani nel 2003. Dal Sole 24 Ore, sempre a pagina 23, dove c'è l'analisi di Alberto Negri, vi segnalo l'articolo di Marco Mussanè sulla conferenza per il 1 settembre, già annunciata la conferenza di pace per cercare di delineare con l'aiuto della comunità internazionale il futuro della Libia. Non sarà facile, sicuramente, annunciata ieri da Nicolas Sarkozy. Vi leggo le ultime righe, perché sono appunto parlano di questo fronte internazionale su cui è impegnato Sarkozy, oltre al suo fronte interno. Abbiamo visto ieri l'annuncio che ha fatto di una tassa del 3% sui redditi oltre i 500.000 euro. E mentre l'attenzione si sta concentrando sulla Libia, Sarkozy ha cercato di tenere i riflettori accesi pure sulla Siria. Anche i siriani hanno diritto alla democrazia e non devono essere condannati e essere massacrati da un regime che non capisce che siamo in un altro secolo. Il presidente, conclude Marco Moussanet, ha tuttavia escluso l'ipotesi di un intervento militare. Dalla prima pagina della Repubblica, anche qui il titolo è sulla Libia. Libia, rapiti 4 giornalisti italiani, ucciso il loro autista, quello appunto di cui parlava Alberto Negri nella sua analisi. Dalla prima pagina della Repubblica vi segnalo inoltre un articolo che poi occupa 3 pagine all'interno, da pagina 37 a pagina 39. Sono parte delle memorie di George Bush sull'11 settembre 2011. Tra poco sicuramente ci saranno i giornali invasi da questa dai tentativi di ricordare o dire qualche cosa di nuovo a 10 anni dall'11 settembre. Qui c'è la versione di George Bush, che era presidente naturalmente degli Stati Uniti l'11 settembre del 2001, e la Repubblica ha tradotto parte dei suoi ricordi, delle sue memorie su quel giorno. Dalla prima pagina della Stampa, anche qui un titolo praticamente uguale a quello della Repubblica, rapiti 4 giornalisti italiani, e poi vi segnalo l'editoriale di Mario Calabresi, il direttore della Stampa, perché Domenico Quirico, uno dei 4, è appunto l'inviato della Stampa. Domenico Quirico, scrive Mario Calabresi, è un maratoneta, è abituato a lunghi silenzi e noi siamo abituati ai suoi. Accade perché vuole risparmiare le batterie del satellitare, perché sta seguendo una storia, cercando un contatto, o perché non vuole dare nell'occhio. A marzo, per molti giorni, ha vissuto rinchiuso in una casa di trafficanti di uomini dietro la spiaggia tunisina di Zarzis, aspettando che il mare si calmasse, aspettando di partire insieme ad altri 112 alla volta di Lampedusa. 22 ore di viaggio su un barcone scrostato di 10 metri. E poi vi segnalo, vi leggo le ultime righe dell'editoriale di Mario Calabresi, che anche qui cerca di ricordarci che se appunto il mestiere di giornalista può ancora, anche oggi, nell'epoca di internet, nell'epoca dei giornalisti embedded, cioè quelli che vanno un po' al seguito delle truppe, sono magari più protetti, però ci sono ancora giornalisti che sono proprio in prima linea e rischiano appunto la vita. Scrive Mario Calabresi: è questo il nostro mestiere, il senso e il valore di andare sui luoghi, anche nel tempo di Twitter e Facebook, per dare ancora spazio all'arrogante volontà di capire e raccontare, per usare le parole di Domenico. Questa notte siamo tutti in ansia e vicini alle famiglie di questi nostri 4 amici, sperando solo che possano tornare al più presto a fare quello che li ha condotti fino alle porte di Tripoli, osservare e raccontare. Dalla prima pagina della Stampa, cambiamo nettamente argomento, però c'è la rubrica di Gramellini, sciopero contro il calcio, perché uno dei fronti italiani, e che sicuramente stride poi con quello internazionale, con la gravità di quello internazionale, è che sulla prima domenica di campionato incombe uno sciopero dei calciatori. Vi leggo il buongiorno di Massimo Gramellini. E se invece dei calciatori scioperassimo noi? Se decidessimo di colpo e tutti insieme di diventare adulti, smettendo di delegare il nostro umore a bande di mercenari con procuratori al seguito? Per me è più facile, ho la squadra del cuore in Serie B. Massimo Gramellini, aggiungo io, lo dà per scontato perché non l'ha mai nascosto, lo racconta spesso ai suoi lettori, le sue ansie da tifoso, è un tifoso del Torino. Ma è come smettere di fumare, con un po' di sforzo possono farcela tutti. Il baraccone del calcio si regge su un incantesimo collettivo. Per rivivere le emozioni pure dell'infanzia, il tifoso finge di credere che quei ragazzotti con l'amata divisa indosso siano i suoi avatar. Trasferisce le sue rabbie e le sue speranze a giocatori che non le condividono, perché ignorano la storia del club e perché comunque non gliene importa niente. Sono lì per guadagnare e per vincere, ma vincere per se stessi e i propri compagni, mica per noi. Credetemi, li ho conosciuti da vicino quando facevo il giornalista sportivo. Nelle interviste ci incensano, ma in cuor loro ci considerano dei pirla. E hanno ragione. I calciatori sono una casta che ci sfrutta, esattamente come quell'altra. Il parallelo è impressionante. Anche in politica deleghiamo a professionisti prezzolati la realizzazione dei nostri desideri, imprestando loro ansia di cambiamento che essi fingono di sottoscrivere nei comizi, per poi irriderle e svilirle nel chiuso degli spogliatoi, pardon, delle aule parlamentari. Mentre noi, con la bava alla bocca, ci dividiamo fra destra e sinistra, Inter e Milan, i nostri avatar vanno a cena insieme, badando ai loro interessi comuni. Il rimedio? Una cura shock. Stadi vuote, urne vuote. È ora di ritirare le deleghe e di diventare tifosi di noi stessi. Dalla prima pagina dell'Avvenire vi segnalo il titolo Caccia finale a Gheddafi e poi naturalmente l'aggiornamento sul rapimento dei quattro reporter. Uno è Marco Monaci, è appunto un giornalista dell'Avvenire. Tra l'altro questo giornalista è stato il primo a telefonare per avvertire del rapimento, perché era a lui che avevano dato il telefono appunto per avvertire, e quindi l'Avvenire, che è il giornale di Monaci, racconta questa vicenda. E poi ci sono 5 pagine di approfondimento su quello che poi sta succedendo nelle strade di Tripoli, di Bengasi e in Libia in generale. Dalla prima pagina dell'Avvenire però vi segnalo anche la rubrica di Gianfranco Ravasi, che oggi ho trovato particolarmente interessante. Sapete, Gianfranco Ravasi, Monsignor Gianfranco Ravasi, cita poche parole di un testo religioso o no, e poi lo commenta. Oggi la rubrica si intitola Il vaccino contro l'invidia e le parole sono tratte da Molière. Quando al mondo appare un genio, potete riconoscerlo da un segno inequivocabile. Tutti si coalizzano contro di lui. La virtù è sempre perseguitata. Gli invidiosi muoiono, l'invidia mai. E scrive Gianfranco Ravasi, sono due classici della letteratura dei loro paesi, l'anglo-irlandese Jonathan Swift, di cui sono le ultime parole, mentre le prime sono di Molière, e il francese Molière. E se vogliamo comporre una trilogia, ecco il tedesco Nietzsche che aggiungeva, non augurate all'invidioso di avere figli, sarebbe geloso di loro perché non può più avere la loro età. Avete dunque capito quale sarà il tema di questa puntata della nostra rubrica, l'invidia, una palla di gomma che più la spingi sotto, più ti torna gara. Come scriveva Alberto Moravia. La sua anima più profonda era stata centrata da un filosofo come Baruch Spinoza. Godere del male altrui era attristarsi dell'altrui bene. Essa è per questo entrata nel tetro corteo dei vizi capitali e a sua volta ha attorno a sé una serie di attendenti o dame di compagnia come il livore, l'assio, la malevolenza, la calunnia, la cattiveria. Conclude Gianfranco Ravasi, figlio della gelosia e l'odio, ma questo vizio è come un veleno che ti sei inoculato e non ti dà tregua. La figura del re Saul, torturato dalla sua invidia per Davide, è un simbolo per tutti. Cerchiamo di vaccinarci contro questa malattia dell'anima con dosi sostanziose di autocritica e umiltà. E a proposito di invidia, è una pagina intera quella della rubrica questa serie di articoli che sta pubblicando il Foglio, che si intitola Vi presento il mio nemico. L'invidia, diceva appunto, autoironia e autocritica, aggiungo io autoironia anche, e umiltà, scrive Gianfranco Ravasi, sono gli antidoti per l'invidia. Sicuramente l'ironia è quella che usa Antonio Gurrado sul Foglio quando ci racconta della sua invidia per Roberto Saviano, lo scrittore, e è una pagina intera, vi ripeto, è molto divertente, ve la consiglio, e vi leggo il sommario. Il demone dell'invidia mi perseguita, sappia Saviano che non cesserà di essere il mio nemico finché io non divento il suo. E questa appunto è una cosa molto autoironica, ma l'invidia credo l'abbiamo provata tutti prima o poi, la proviamo tutti prima o poi, è veramente un come la gelosia, un mostro verde, appunto qualcosa che poi ci divora. Dalla prima pagina del Messaggero vi segnalo, oltre al titolo, anche qui rapiti 4 giornalisti italiani uguali a quello della Stampa e di Repubblica, un aggiornamento sulla manovra. Abbiamo visto ieri sul Sole 24 Ore quello più importante è probabilmente l'aumento di un punto di IVA, e scrive il Messaggero, pensioni, il PDL sfida la Lega, supertassa oltre 200.000 euro, quindi questa soglia per la supertassa potrebbe essere innalzata. Vi segnalo poi l'intervento di Oscar Giannino, naturalmente, che gli ascoltatori di Radio 24 conoscono molto bene. Il titolo è L'IVA, le auto e i conti sbagliati di Marchionne. Secondo Oscar Giannino, l'IVA sarebbe forse appunto una dei correttivi più equi alla manovra. Descrive Oscar Giannino, alzare di un punto l'aliquota IVA del 20% ha un effetto distributivo sui contribuenti assai più equo del cosiddetto contributo di solidarietà, perché l'imposta sul valore aggiunto grava sia su chi le tasse sul reddito le paga per intero, sia su chi invece fa il furbo. Inoltre è assai più depressivo sui consumi aggiungere un 5% e un 10% di imposta sui redditi a chi già paga un'aliquota che è massima tra i paesi avanzati, su chi proprio in ragione dei propri redditi più consistenti consuma per un ammontare considerevolmente elevato. Ieri Sergio Marchionne, amministratore delegato della Fiat, aveva appunto detto di essere contrario all'IVA. E quindi le ultime righe di Oscar Giannino fanno riferimento proprio a questo intervento di Marchionne. Scrive Giannino: Marchionne ha anche detto di essere d'accordo su una tassa patrimoniale a patto che siano chiari gli obiettivi di riduzione e riqualificazione dell'apparato pubblico, perché Marchionne appunto è intervenuto su queste due cose. L'IVA, cioè, si è detto contrario, anche perché secondo Marchionne colpirebbe i consumi di auto, e poi la patrimoniale, che invece alla quale Marchionne sarebbe favorevole. Le ultimissime righe di Oscar Giannino: legittima opinione quella di Marchionne, a patto però che si ricordi che Marchionne ha residenza in Svizzera e bassissime aliquote sul reddito, noi no. E con questo intervento di Oscar Giannino sulla prima pagina del Messaggero, che poi continua all'interno del Quotidiano di Roma, vi lascio un attimo per le notizie sul traffico, ci risentiamo subito dopo. Mi segnalano invece che abbiamo ancora un po' di tempo, e allora, a proposito di Marchionne, che ha la residenza in Svizzera, per la precisione a Zug, questo paese, questa cittadina svizzera, vi segnalo dal Foglio una pagina intera di Andrea Faticati: benvenuti a Zug Paradiso, storia della cittadina svizzera dove le più grandi holding del business mondiale amano trasferirsi. Ci sono infatti 29.641 imprese a fronte di 25.726 abitanti. Tanti, è un dato del 2009, ma ora anche Lucerna fa concorrenza sul piano fiscale. Cittadini stranieri, ci sono 8 Bisheim di Metro, la grande catena di antisignana degli hard discount, quella catena dove si può entrare solo con una tessera, bisogna comprare grandi quantità, Frank Stronach di Magna e poi naturalmente Sergio Marchionne. In primo piano. E rieccoci di nuovo con la rassegna stampa. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli. Sulle prime pagine, naturalmente, la guerra in Libia, la fine del regime di Gheddafi e il rapimento dei 4 giornalisti italiani, e poi la crisi economica. E l'ultima cosa di cui abbiamo parlato, una delle ultime cose, anche lo sciopero annunciato dai calciatori per la prima domenica di campionato, domenica prossima. Vi segnalo quindi il titolo della Gazzetta dello Sport: non scioperate. L'editoriale di Andrea Monti, il direttore, all'ultimo stadio. Ci mancava solo lo sciopero del pallone. Mentre infuria una crisi finanziaria e politica epocale, nel giorno in cui il paese segue col cuore in gola la vicenda di 4 giornalisti rapiti in Libia, a cui si rivolge ogni nostro pensiero di solidarietà, tocca occuparsi delle convulsioni di un sistema calcio giunto per sua colpa in pienza all'ultimo stadio. E prosegue a pagina 2 Andrea Monti: a meno di un miracolo, sabato e domenica non si giocherà. Le arene rimarranno mestamente vuote proprio nel momento in cui avrebbero potuto fornirci una modica dose di sollievo, la banale sensazione che la vita continua nonostante, assurdo e, aggiungo, vergognoso. Una follia che la gente non può capire e che la Gazzetta non può in alcun modo giustificare. Questo era Andrea Monti sulla Gazzetta dello Sport. Su questo paventato sciopero dei calciatori vi segnalo l'editoriale di Vittorio Feltri sulla prima pagina del giornale: se i calciatori vogliono imitare la CGIL. La CGIL, sapete, ha proclamato uno sciopero generale invece per il 6 settembre, una decisione molto contestata anche da parte del PD. Scrive Vittorio Feltri: c'è una stagione per ogni cosa e questa, problemi climatici a parte, non è adatta per scioperare. Dovrebbero saperlo perfino i calciatori e invece non lo sanno, altrimenti avrebbero scelto un momento più opportuno per dare peso alle loro pretese. E non mi riferisco allo stipendio di campioni e di varie mezze tacche, che è fuori discussione. Oggi i prestipedatori si incontrano con i padroni del pallone e decidono se scollegare o no i piedi dal cervello. Dalla prima pagina di Libero vi segnalo l'apertura che torna sulla questione di come può essere modificata la manovra di Ferragosto: la vera manovra delle libertà. Trasformiamo l'emergenza in opportunità. Si possono ricavare 400 miliardi senza un euro di tasse. Così il centrodestra riuscirebbe a evitare il suicidio. L'articolo poi si prosegue a pagina 2, dove c'è questo specchietto con le proposte di Libero, che il giornale stesso diretto da Maurizio Belpietro definisce la finanziaria di Libero, e c'è questo elenco: il totale è appunto 400 miliardi, di cui fanno parte dismissione del patrimonio pubblico per 300 miliardi, allungamento dell'età pensionabile fino a 40 miliardi, anticipo dei costi della standard della sanità e altri risparmi per appunto altre misure per un totale appunto di 400 miliardi. Vi segnalo da Libero anche un articolo molto interessante, perché la sanità è sicuramente uno dei dei capitoli di spesa più pesanti per i bilanci dello Stato, delle regioni e quindi dello Stato, e quelli su cui appunto si cercherà di risparmiare, ecco come nasce il buco della sanità. Tutte le regioni si alzano i rimborsi. C'è questa analisi di questo complesso meccanismo dei DRG, i cosiddetti DRG, che sta per Diagnosis Related Group, che sono i tetti di spesa per la cura del malato, che sono fissati dalle stesse regioni e però a volte appunto producono delle storture o magari degli sprechi. Davvero qui, con numeri alla mano, si cerca di capire come funzionano questi DRG e come possono essere l'origine di alcuni sprechi. Vi segnalo la prima pagina del Riformista, perché apre, l'unico quotidiano che apre su questa notizia, i dati forniti ieri da Confartigianato. Il titolo è L'urlo dei giovani. Per illustrare questo articolo in prima pagina, il Riformista ha scelto un particolare del più famoso quadro di Edvard Munch, che è appunto quell'uomo che urla. Il quadro si chiama appunto L'urlo. Maglia nera, gli ultimi dati di Confartigianati, scrive il Riformista, confermano la drammatica condizione dei disoccupati nelle regioni del Mezzogiorno, le realtà più compromesse. A meno di 25 anni la fascia più colpita, sarebbero 1.100.000 sotto i 35 anni i giovani senza lavoro, ed è un tristissimo record europeo. Dalla prima pagina del Manifesto il titolo fuoco amico riferito, come vi dicevo prima, alle critiche del PD all'annunciato sciopero della CGIL per il 6 di settembre. Il Manifesto sottoscrive invece questa scelta. In un editoriale di Loris Campetti si legge: la crisi non è il prodotto del destino, ma di scellerate politiche liberiste. Non colpisce tutti allo stesso modo, ma scatena i suoi effetti devastanti sui più deboli. Pensare di uscirne con un'alleanza contro natura, quella auspicata da tante parti, aggiungo io, tra cui anche il capo dello Stato, appunto tutta un'alleanza tra le parti sociali, però, scrive Loris Campetti, pensare di uscirne con un'alleanza contro natura tra chi l'ha provocata e accompagnata e le sue vittime sarebbe una scelta suicida, foriera di un massacro sociale insostenibile. E quindi prosegue Campetti: sulla base di queste considerazioni abbiamo colto con sollievo la decisione del gruppo dirigente della CGIL di indire per il 6 settembre uno sciopero generale contro la manovra classista del governo, che colpisce in un'unica direzione e usa la crisi per regolare il conflitto di classe a favore dei più forti. Dalla prima pagina del Fatto Quotidiano segnalo l'editoriale di Marco Travaglio, che dà conto di tutte le querele che il ministro Michela Brambilla ha fatto al Fatto. L'ultima è perché il Fatto sostiene che Michela Brambilla non dovrebbe farsi difendere dall'avvocatura dello Stato, scaricando così sullo Stato anche i costi di tutte queste querele che lei sta facendo al giornale, ma non solo. Devo dire che poi il giornale, comunque, nonostante sia stato querelato da Michela Brambilla per un totale di 2 milioni di euro, continua a denunciare quelli che secondo il Fatto Quotidiano sono il malcostume, i malefatti o i comportamenti censurabili del Ministero del Turismo e di altri ministeri. Oggi, per esempio, il Fatto Quotidiano si occupa di Raffaele Fitto, che è il ministro per i rapporti con le regioni, che è andato in vacanza con un treno di Trenitalia che ha con una particolare protezione, mobilitando molti poliziotti della Polfer, e il Manifesto, che ha dato ieri la notizia di questo viaggio un po' particolare del ministro Raffaele Fitto con tutta la sua famiglia, pubblica sia la lettera di Raffaele Fitto che la rettifica di Trenitalia, che spiega che comunque il viaggio è stato pagato dal ministro, anche se poi appunto ci sono state un po' delle spese aggiuntive relative al Fatto. Ha spiegato Trenitalia che quando un ministro viaggia su un treno servono comunque delle misure di sicurezza particolari. Ultima notizia che vi segnalo dal Fatto Quotidiano è sempre sull'evasione, che è uno dei grandi temi di cui si parla in questi giorni. Furbilandia, lo dicono le banche: 600.000 famiglie ricchissime, ma solo in 74.000 dichiarano più di 200.000 euro. Sui giornali di oggi ci sono tantissime altre cose, purtroppo non abbiamo più tempo. C'è qui di fianco a me Irene Zerbini, che ci parlerà sia dell'argomento di 24 mattina che dell'aggiornamento sulla vicenda dei quattro giornalisti rapiti, giusto? Torneremo sui giornalisti rapiti adesso, grazie anche ai corrispondenti che incontriamo alle 8:20. Abbiamo mobilitato i corrispondenti che vivono in Italia e che leggono la stampa araba perché ci possano fornire un po' la sensazione e soprattutto la traduzione di come viene trattato questo rapimento da parte delle testate del Golfo. Naturalmente tutto questo avverrà alle 8:20. Gli ultimi aggiornamenti sono già stati dati durante i giornali radio, purtroppo non si sa molto di più rispetto a quanto è stato reso noto. Il CDR di Avvenire ha espresso solidarietà e affetto a Claudio Monici. Quirico e Monici hanno chiamato casa, questo si sa, questo è un segno positivo, così è stato interpretato, si rafforza la speranza di una liberazione, ma non ci sono altri elementi che facciano, che indichino che a breve si vada in quella direzione, almeno elementi resi pubblici. Dopodiché noi alle 8:30 andremo a raccontare una storia che arriva da Nardo, perché come sapete in questi giorni noi ci indigniamo per la repressione nel sangue delle rivolte, solidarizziamo nel sentire comune facilmente con questi giovani che si ribellano. Ebbene, rivolte stanno avvenendo anche sul nostro territorio, non contro la dittatura, perché l'Italia è una democrazia, dovrebbe vigere lo Stato di diritto, ma di fatto contro lo sfruttamento che in molti campi di raccolta di angurie, di pomodori del sud, ma anche di mele trentino nel nord, vigneti in provincia di Brescia, tutti i diritti minimi acquisiti rispetto della dignità umana vengono calpestati sistematicamente. Questo alla luce del sole. Lo Stato dov'è? Ci siamo chiesti. 24 mattino estate con Irene Zerbini. E ben ritrovati, questo è lo spazio che dedichiamo solitamente all'incontro con i corrispondenti stranieri, coloro che ci guardano come in uno specchio bifronte e raccontano con la cultura che li caratterizza, con i valori di cui sono portatori, l'Italia all'estero. Ebbene, oggi facciamo un'eccezione perché vogliamo avere un aggiornamento, anche se purtroppo di elementi nuovi ce ne sono pochi, sulla situazione dei 4 rapiti in Libia, che sono anche giornalisti, sono 4 giornalisti italiani, è stato stabilito un contatto, sono riusciti a chiamare a casa, sono Giuseppe Sarcina, avete sentito, Elisabetta Rosa Spina, quindi 2 giornalisti del quotidiano di Via Solferino, del Corriere della Sera, c'è dell'Avvenire Claudio Monici e Domenico Quirico della Stampa. Sarebbero in un appartamento a Tripoli, dicevano le prime informazioni, abbiamo parlato poco fa con il console a Bengasi, Guido De Sanctis, che ci ha confermato la presenza dei giornalisti nell'appartamento e ci ha confermato di non aver avuto ulteriori contatti durante la notte. Ramadan, ha detto, per cui va anche tutto un po' a rilento nella mattinata. Non appena ci saranno novità ufficiali, naturalmente vi terremo informati. Scriviamo queste poche note con l'animo schiacciato dall'ansia, così si apre l'editoriale del giornale a maggiore circolazione in Italia, cioè il Corriere, a firma del direttore Ferruccio De Bortoli. Con la speranza, aggiunge, dopo aver sottolineato l'ansia, che tutto si concluda nel migliore dei modi, nelle prossime ore. Forse già nella notte, diceva, è rimasto aperto non solo il Corriere ma anche il Sole 24 Ore, tutti i quotidiani fino a tarda notte per l'ultima ribattuta. Purtroppo la notizia della liberazione che si attendeva non è arrivata. Andiamo a Tripoli, Cristiano Tinazzi, buongiorno. Sì, buongiorno. Ci sente? Cristiano, ci senti? Sì, sì, vi sento, vi sento. Nella notte come è evoluta la situazione in città? La situazione è più o meno quella del giorno prima, in tutti i quartieri ci sono decine e decine di checkpoint, ma la gente non si sposta da un quartiere all'altro, difficilmente, a meno che andare all'ospedale o in altri luoghi di necessità, non c'è una sicurezza, ormai chiaramente dissolversi le forze di polizia, ormai la città è in preda all'anarchia. Ci sono quartieri dove le zone sono off limits, soprattutto per i ribelli, ma anche per i civili, perché sono pieni di cecchini. E io credo che i 4 siano nella zona di Buslim, penso, perché è l'unica zona rimasta sotto controllo della lista. Lì non possono entrare i ribelli. Oggi avrò un incontro con il comandante ribelle e con il comandante di tutti i ribelli di Tripoli per parlare anche di questa situazione, se loro hanno maggiori informazioni, se si può fare qualche cosa, però la situazione è molto delicata. E purtroppo anche il fatto che ci siano decine di migliaia di armi fanno sì che chiunque, insomma, in questa situazione possa trasformarsi in un criminale. Certo. Tu dove ti trovi? Tu hai detto. Io adesso, esiste un quartiere, l'unico ancora che si possa dire totalmente sotto controllo dei lealisti. Sì, rispetto a questo quartiere, tu dove ti trovi? Io mi trovo a est, sto a Souk El Jumma, che è un quartiere a est di Tripoli. Qui è totalmente in mano ribelle, tanto che c'è il campo base dei soldati provenienti da Misurata, che sono venuti qui per dare una manforte ai ribelli di Tripoli. E proprio ieri quelli di Misurata dovevano partire per andare nella zona di Busdin, per accerchiarla e per invitare la popolazione a cedere le armi, perché il discorso è che lì è anche la popolazione, Fido Gheddafi. E quindi c'è il problema di se entreranno e di fare un bagno di sangue in quella zona. E in mezzo a questa situazione che tu ci hai descritto come ad altissima tensione, notizie poi ne arrivano molto scarne, sono a volte contraddittorie, in questa situazione, in questo accerchiamento che tu prevedi ed è stato in qualche modo pianificato dai ribelli, potrebbe diventare ancora più pericolosa la situazione dei nostri quattro giornalisti? Potrebbero diventare merce di scambio di altissimo valore a questo punto? Sicuramente, io non credo, a meno che non ci siano ulteriori accordi o trattative in atto, non credo che loro vengano rilasciati se si trovano all'interno di Abuslim e se, come hanno pronosticato anche ieri, poi si sono fermati perché c'era già un'altra unità combattente che stava combattendo nella zona. Se i ribelli circonderanno Abuslim, perché hanno dato 3 giorni, gli avevano dato per cedere le armi, è chiaro che se si trovano all'interno diventeranno uno strumento di pressione, assolutamente. Questo probabilmente li hanno anche rapiti per quello, a meno che non siano soltanto gruppi criminali, perché ripeto, qui ormai ognuno ha una pistola o un fucile mitragliatore, hanno svuotato, saccheggiato i depositi di armi, il problema sarà dopo riprendere queste armi. La speranza appunto iniziale era che fossero in mano a criminalità comune, che fosse più un rapimento a scopo di rapina, che è chiaramente una speranza che va affievolandosi con l'evolversi delle ore. Il dialogo tra le parti è qualcosa di assolutamente utopico in questa fase, secondo te, Cristiano Tinazzi? Ormai i soldati lealisti, comunque anche i civili che facevano parte della struttura politica e dell'amministrativa, della struttura del regime, si sono dati alla macchia, e quelli che non si sono dati alla macchia sono stati arrestati, ci sono stati scontri a fuoco, i quartieri chiaramente in mano ai ribelli sono stati ripuliti dai governativi e sono stati portati in centri dove era possibile vederli. Ho assistito all'arresto di diverse persone, però non si può parlare con loro, non si sa che fine facciano. Dicono che li manderanno davanti a una corte, a un tribunale, però non si sa niente, quindi chiaramente nessuno ha interesse a farsi catturare, e probabilmente si sta trovando poi in una sorta di Baghdad, dove ormai i fedeli al deposto regime faranno di tutto per creare instabilità. Speriamo si possa scongiurare la tragedia. Cristiano, grazie ancora, naturalmente da parte nostra non solo un saluto, un augurio di buon lavoro, un invito alla cautela anche per quel che ti riguarda, la prudenza, e grazie per queste tue preziose informazioni in questi giorni importantissime. Grazie Cristiano Tinazzi. Grazie a voi. Grazie, da Tripoli. Allora, dottor Audi, lei è il presidente del COMAI e dell'AMSI e dunque ha delle fonti privilegiate tra i medici che operano non solo a Tripoli, a Bengasi, in tutta la Libia. Cosa è riuscito a sapere su questo rapimento dei giornalisti italiani? Buongiorno. Buongiorno a voi. Veramente molto difficile sapere certe su questo... veramente un atto criminale nei confronti dei giornalisti, che con tutto il pericolo della situazione, con tutta la difficoltà che vanno in un paese che sta in guerra per garantire il diritto delle informazioni, e vengono utilizzate per scopi o politici o economici. Noi abbiamo subito dato il nostro, da quello che ci dicevano i nostri medici, i nostri amici libici anche qua, di muoversi con la massima cautela, perché lì regna una grande confusione. Nel momento del festeggiamento c'è anche la grande possibilità che tanti uomini si trasformano da uomini di Gheddafi ai ribelli o viceversa, perché non c'è un limite visibile in questa trasformazione, perché sono tutti libici, sono più o meno uguali e nessuno può garantire: io sono con i ribelli, io sono un uomo di Gheddafi. L'autista che guidava la vettura dei giornalisti, come sappiamo, è stato barbaramente ucciso. I giornalisti sono stati inizialmente malmenati, derubati, si teme per la loro vita, ma si sperava fossero appunto in mano a dei, diciamo così, dei criminali comuni. In questo scenario sembra molto più difficile, più complicata la situazione. Il fatto che siano giornalisti, il fatto che siano italiani, garantirà verso di loro un occhio di riguardo, secondo te? Ma sicuramente dipende da per quale scopo sono stati presi. Una cosa, secondo me, che è stato sbagliato annunciare subito ieri. Ero in diretta in televisione quando è venuta la notizia il pomeriggio che la taglia nei confronti di Gheddafi, una cifra così molto alta. Io ho subito commentato che secondo me in questo momento, visto la situazione di Tripoli, visto la situazione libica, visto la confusione e cominciare a parlare di soldi che girano, visto che lì ci sono uomini con contratti, lavorano proprio con contratti economici. E questo è un invito, tra parentesi, a nozze, cominciate a trovare modi per guadagnare i soldi. E questo è purtroppo, proprio ieri non si doveva, secondo me, il mio ragionamento modesto, non si doveva fare. Rendere noto la taglia sulla testa di Gheddafi, insomma, un altro atto, secondo te, di scarsa conoscenza e della cultura e della realtà del posto. Grazie mille per ora al dottor Audì, che in questi giorni ci ha aiutato, non solo noi, ma molti organi di stampa italiani, ad avere notizie di prima mano, avendo un accesso privilegiato a persone che vivono nella realtà e negli ospedali di Tripoli, di Bengasi, dove arrivano i feriti, dove la situazione è sempre di grande, non solo disagio, ma bisogno. Mancano a volte materie medicinali necessarie a interventi di grandissima urgenza, e addirittura moltissime persone se ne sono andate, perché molti degli infermieri, molto del personale paramedico, molti dei dottori provenivano da altri paesi. Ci ha informato nei giorni precedenti come anche invece molti dottori che vivevano in Italia siano partiti proprio per aiutare nell'emergenza, ma questo ha inciso poco nulla sul bilancio finale, nel senso che la maggior parte di coloro che lavoravano in corsia si è data alla fuga. 24 mattino estate. Stasera un gruppo di persone mi hanno minacciato di morte e vogliono uccidermi, quello che vogliono portare attento alla mia vita. Io gli mandano il messaggio a tutte quelle persone, a tutte queste forze invisibili che sono nascosti dietro: io non ho paura di loro, continuerò a lottare e invitiamo tutti a non andare domani a lavorare pacificamente. Lotteremo fino alla fine con queste persone, con queste mani nere che lottano dietro di noi, che sfruttano la gente, che mangiano con il nostro sangue, con il nostro sudore. Ivan Gagné, questo è il tuo discorso nel giorno che ha dato inizio a tutto quello che stiamo per raccontarvi. Per partecipare, per le vostre opinioni, per le vostre domande, potete inviare sms al 349-238-6666 o potete chiamarci all'800-24-00-24. Buongiorno. Benvenuto a colui che ha aiutato a organizzare il primo sciopero tra i migranti sfruttati dal meccanismo del caporalato. Siamo a Nardò, provincia di Lecce, nel Salento. Ivan, buongiorno. Buongiorno. Tu sei uno studente, tra l'altro, di ingegneria del Politecnico di Torino e la tua storia è finita sui quotidiani anche per questo. Come sei finito a Nardò. Come sei finito nei campi di pomodoro? Sì, un amico, ma praticamente un amico che mi ha parlato di Nardò, che lì si svolgeva la raccolta di pomodori, del pomodoro e delle angure, quindi ecco perché sono venuto lì. Tu sei proveniente dal Camerun e ti stai pagando gli studi con una borsa di studio. Sì, sì. È scaduta? Cos'è successo? Perché hai avuto bisogno di addirittura raccogliere i pomodori a 3,50 euro al cassone? Sì, perché praticamente quest'anno con gli studi mi sono messo male, sono andato fuori corsi, dato il fatto che non avevo raggiunto, diciamo, i numeri di crediti sufficienti per conservare. E quindi è venuta meno, proprio vicino al traguardo, sono venuti meno i requisiti per il mantenimento della borsa di studio. Un amico ti parla di Nardò, ti dice c'è la possibilità di guadagnare e tu arrivi ignaro di tutto, non sapendo di cosa si tratti, in provincia di Lecce. Quanto venivate pagati per la raccolta di questi pomodori? Siamo pagati al cassone, cioè la raccolta si fa, diciamo la paga si fa al cassone. Quanto pesa un cassone? Un cassone pesa tra 300 e 350 kg, sì. E per caricarlo in media ci vuole un tempo di 50 minuti, un'ora. E quanto venivate pagati a cassone? Siamo pagati al cassone 3,50 euro. Da una giornata che inizia alle 3 di notte fino alle 15:19. Diciamo abbiamo 15 o 16 ore in media di lavoro al giorno. Allora, è un lavoratore in media carica 6-7 cassoni. Sì. Sì, ma quanto prendevano i caporali? Adesso tu ci hai parlato della paga destinata ai braccianti, 3,50 euro. Sì, 3,50 euro. E hai fatto iniziare questo primo sciopero, questa rivolta, per sensibilizzare, perché per esempio di questo caporalato si parla pochissimo, sicuramente nelle campagne della Puglia, della Calabria si conosce questa situazione, ma nel resto d'Italia arrivano anche poche notizie e lo sciopero ha contribuito a far parlare. Tu sei stato intervistato dalla Stampa, Quotidiano Nazionale, a far venire fuori questa situazione da schiavitù, perché tra l'altro il fascicolo aperto alla Procura di Lecce parla proprio di questo, riduzione in schiavitù, questo è il reato sul quale si sta indagando, che avviene alla luce del sole. Qui non stiamo parlando di uno scantinato in cui lavora della manodopera di minorenni cinesi nascosti da tutti o da un meccanismo di omertà. Qui stiamo parlando di distese, di ettari e ettari di campi in cui si raccolgono i pomodori e le angurie, pratica e segmento dell'agricoltura che naturalmente è molto sviluppato da decenni, non è un fenomeno nuovo ed è alla luce del sole. Io ringrazio per aver contribuito all'informazione che vi stiamo raccontando tantissimo un giornalista, si chiama Danilo Lupo di Telerama. Buongiorno, benvenuto Danilo. Come si è potuti arrivare a questa situazione? Com'è possibile? Lo Stato dov'è a Nardò? Perché ci sono queste violazioni terribili e dal punto di vista del salario, abbiamo sentito le cifre da fame, e dal punto di vista dello sfruttamento e della minaccia di morte, con la quale abbiamo aperto la trasmissione, all'indirizzo di coloro, Ivan è uno dei protagonisti, che hanno organizzato la rivolta, che hanno organizzato lo sciopero. Come si è arrivati fin qua? Questa è una buona domanda, nel senso che in realtà quella della raccolta delle angurie e dei pomodori a Nardò è una storia ormai più che ventennale, siamo nei 25 anni. Probabilmente ci si è a questo sistema. Danilo, ti riparliamo tra un istante perché abbiamo delle difficoltà a sentirti con nitidezza, questa linea sembra un po' disturbata. Tu continua a seguirci perché c'è qualcuno, un ascoltatore, che vuole farti una domanda proprio su questo tema. Buongiorno Giuseppe, benvenuto. Sì, buongiorno. 800 24 0024 il numero di telefono, ne approfitto per ricordarlo. Giuseppe, dica. Sì, allora niente, a parte che queste cose si sono sempre sapute, è strano che chi debba intervenire non lo sappia e debba essere una persona di loro a dirlo, però adesso si sa comunque. E io direi, tutte queste persone che vengono sfruttate, di obbligare a chi li sfrutta di assumerli regolarmente. E poi non capisco perché questa frutta viene prodotta con bassissimi costi e poi al supermercato troviamo prezzi esorbitanti. Qui stiamo parlando perché poi non si riesce a vendere perché i prezzi sono altissimi. Stiamo parlando e di angurie e di pomodori e quest'anno, proprio perché non era competitivo il prezzo a cui si sarebbe potuta proporre l'anguria, moltissime di queste angurie sono state lasciate macerare sui campi di Nardò e dintorni. Grazie Giuseppe per questa domanda alla quale cercheremo di rispondere. Torniamo a Danilo Lupo, giornalista di Telerama. Perché si è arrivati a questo punto? Gianluca Nigro, sempre da Nardò, è invece un operatore sociale dell'associazione Finisterre che ha aiutato questi migranti, sono centinaia infatti in queste zone, a avere quantomeno delle condizioni di vita decorose. Gianluca, dove dormono tutte queste persone sfruttate? Intanto buongiorno. Buongiorno naturalmente. Normalmente in tutte le zone d'Italia dove questo fenomeno è particolarmente sviluppato dormono in casolari senza acqua potabile, senza luce elettrica e lontano dai centri abitati. E questa è la norma. La norma è della norma che serve a rafforzare il ruolo del caporale, che oltre a trattenere una percentuale sulla paga, opera lo sfruttamento rendendo dei servizi alle persone che si trovano in queste condizioni, quindi appunto accesso all'acqua potabile, cibo e quant'altro. Quindi e qui a Nardò invece si è tentato con mille difficoltà e anche con di mettere in piedi sostanzialmente una tendopoli che avesse come obiettivo l'accoglienza unita a un processo di emersione dal lavoro nero. Tu dormi lì con loro in questa tendopoli, quante persone sono ospitate nel mese d'agosto in questa tendopoli, cioè nel mese della raccolta insomma? Quest'anno c'è stata una particolare vicenda perché c'è stato un numero di arrivi sul territorio maggiore degli anni precedenti, anche in funzione del fatto che della vicinanza con il campo di Manduria. Comunque quante persone? Siamo sulle 400 persone complessivamente. Adesso, quanti bagni e quante docce ci sono? Ci sono 20 bagni chimici e 13 docce. Per 400 persone? Sì. Queste sono le risorse messe a disposizione dal comune di Nardò in collaborazione con la provincia. Tornando al caporalato, i caporali sfruttano i braccianti dal punto di vista economico, perché abbiamo sentito quanto vengono pagati, 3,50 euro a cassone, in realtà ricevono dagli imprenditori molto di più. Questi caporali, si calcola che più o meno riescano a fare anche un guadagno di 4.000 euro al giorno. Ebbene, un caporale è mai stato arrestato nella tua zona? Caporali non sono mai stati arrestati per un problema semplice, c'è un vuoto normativo e il caporalato non è reato e fino ad oggi è stato sostanzialmente combattuto con una ammenda di 50 euro per ogni persona che il caporale sfrutta, quindi si può dire senza giri di parole che per le aziende che vogliono utilizzare i caporali l'ammenda rappresenta un costo di gestione, perché un altro dei problemi fa ridere. Un altro problema centrale è il fatto che a questo corrisponde una sostanziale debolezza dei controlli sulle aziende. Ora, c'è un giro di vite dietro le porte, quindi l'informazione più recente ci porta ancora una volta a parlare di manovra. Questa volta non parliamo né di patrimoniale né di sanità, ma parliamo di un capitolo forse trascurato della manovra, ma che sarà molto importante per dare degli strumenti legislativi a chi in Italia si occupa di caporalato. 24 mattino estate. Sembra quasi ironico, naturalmente, questo richiamo alla pappa, al pomodoro, perché il simbolo del Made in Italy è proprio qui, in queste conserve, in questi pelati, in questo frutto d'oro. E sentite quante sofferenze ancora oggi intorno alla raccolta di una delle verdure che dovrebbe essere al centro anche di controlli, soprattutto controlli a vari livelli, e dell'ispettorato del lavoro e delle aziende sanitari. Ci dovrebbe essere un giro di vite per contrastare il lavoro irregolare in questi campi. Invece, fino ad oggi, il caporalato, per esempio, era punito con una semplice sanzione amministrativa. Nella manovra è stato previsto, grazie alla mobilitazione dei sindacati in Italia, ha fatto moltissimo la CGIL, c'è stata una proposta di legge del PD che è stata presentata col sostegno, va detto, di tutto l'arco costituzionale, che chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera, organizzando nell'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno, naturalmente, di necessità dei lavoratori, verrà finalmente punito con la reclusione da 5 a 8 anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. E quindi si spiega cosa debba intendersi per sfruttamento, e ci sono tanti indici presuntivi, cioè se esistono i segnali per cui si possa configurare lo sfruttamento, le imprese non potranno sottrarsi alla loro responsabilità e soprattutto servirsi di questi caporali. Tornando al giornalista, buongiorno Danilo Lupo, perché se le imprese pagavano, hanno pagato fino ad oggi una cifra importante a questi caporali per ogni cassone raccolto, perché dunque non hanno avuto contatti diretti coi braccianti? Perché servirsi del caporale quando si sa che fa la cresta o trattiene tantissimo di quanto viene dato? Buongiorno Irene, naturalmente buongiorno anche ai radioascoltatori. La mia impressione è che fosse un sistema ormai consolidato. Credo che ci fosse sostanzialmente una ragione pratica per preferire questo strumento. Intanto perché da un lato si è sempre fatto così, no? Tra virgolette, cioè da 20, 25, 30 anni, da quando ha assunto le sembianze che conosciamo, che sono venute alla luce quest'estate, il fenomeno è stato gestito in questa maniera, quindi è un po' un elemento quasi di tradizione, se vogliamo. E poi perché è più semplice per un imprenditore trattare e parlare con un caporale, con 20 caporali all'interno di una struttura e delle campagne di erdo, piuttosto che con 400, 500, 600 persone. Credo che sia innanzitutto un elemento di tradizione da un lato e di semplicità logistica dall'altro. D'altronde, in che modo questi caporali sono in grado di intimidire, di minacciare coloro che si trovano in questi campi e hanno bisogno di lavorare tutti i giorni? Il punto principale è il rapporto privilegiato con l'imprenditore, nel senso, non è un caso che la richiesta venuta fuori, la vera richiesta forte venuta fuori in realtà dallo sciopero iniziato quest'agosto, era da un lato condizioni di vita e di lavoro umane e contratti giusti e corrispondenti al proprio lavoro, ed era un punto. L'altro era soprattutto il contatto diretto dei lavoratori tra i lavoratori e le aziende, cioè quello che chiedevano paradossalmente in maniera così aperta era di eliminare quell'intermediazione di quel caporale, certo, che prendeva, che ci fa questa cresta incredibile intorno al lavoro. E qual è stata la risposta delle aziende a questa richiesta? Qualcuno si è fatto avanti? La risposta dell'azienda è stata deludente, ve lo dico senza mezzi termini, nel senso che c'è stato questo primo timidissimo segnale, ovvero di fronte alla, alla soluzione escogitata di liste di prenotazione organizzate presso il Centro per l'Impiego, che era una proposta della CGIL, ma anche, devo dire, di Finisterre e di un'altra serie di associazioni del settore. Queste liste di prenotazione che appunto eliminano l'intermediazione e mettono in campo un rapporto diretto tra lavoratore e azienda, sono state alla fine della stagione, ormai quando diciamo la raccolta è diventata ormai residuale, sono state utilizzate perché il problema era scoppiato da due aziende per una decina di lavoratori. Stiamo parlando ovviamente di numeri piccolissimi, infinitesimali. Danilo, questi lavoratori tra l'altro hanno denunciato più volte alle forze dell'ordine locali la loro situazione e nessuno si è fatto vedere, né sui campi né da parte dell'ispettorato del lavoro, non si è visto lo Stato in tutte le sue forme e in tutte le sue ramificazioni giuridico-legali, istituzionali. Com'è possibile questo? La cosa che mi ha colpito, che ha colpito molti in realtà, specialmente ai primi di agosto, specialmente appena è iniziato lo sciopero e la rivolta, chiamiamola così, di Ivan e dei suoi compagni, era proprio questa, cioè che ci fosse un gruppo di persone, un gruppo di lavoratori che, diciamoci la verità, se fossero stati italiani, se fossero stati comunitari, avrebbero attirato intorno a sé l'attenzione non solo dei media ma sicuramente anche delle forze dell'ordine, dei NAS, della ASL, di tutti gli organi di controllo deputati. Invece c'erano 200 persone che incrociavano le braccia, 250 persone che incrociavano le braccia e che erano impegnati in una lotta solitaria per chiedere il rispetto della legge e delle elementari forme della dignità umana senza che nessuno intorno facesse nulla degli organi. Una piaga che è stata vissuta come se colpisse questi migranti affamati, molti erano arrivati anche da Lampedusa, erano fatti loro e ce ne siamo fino ad oggi lavati le mani. Pronto, buongiorno Mario. Buongiorno. Da dove chiama? Chiamo da Genova. Dica. E stavo ascoltando che state toccando l'argomento della mia telefonata. Io volevo evidenziare che la magistratura, io da quando sono bambino, ho 58 anni, perciò diciamo che almeno da 30 anni io sento parlare di questo caporalato, come di altri reati. Mi sembra impossibile che la magistratura, il pubblico ministero della zona, non abbia avuto notizia, come l'hanno avuta tutti per i soggetti che stanno chiamando, io stesso, del fatto che esiste questo reato. Vuol dire che alla magistratura non interessano certi argomenti, perché il pubblico ministero avrebbe l'obbligo di esercitare l'azione penale, il pubblico ministero della zona dove si trova il centro della raccolta di queste ore. Nardò, in provincia di Lecce. Sia il pubblico ministero di Nardò, ma se a Nardò esiste una procura della Repubblica ci sarà un pubblico ministero che avrà il preciso obbligo di intervenire. Grazie a Mario, e infatti c'è un fascicolo aperto, come avete sentito purtroppo da poco il caporalato verrà da poco, cioè diciamo che c'è una proposta di legge, non è ancora il caporalato punibile penalmente, era semplicemente punibile con una sanzione amministrativa. Abbiamo contattato la procura naturalmente, ma essendoci un'indagine in corso hanno preferito non partecipare a questa trasmissione, ci hanno confermato che c'è un fascicolo aperto per il reato contro ignoti di riduzione in schiavitù. Ora Danilo Lupo, tu hai seguito questa vicenda e hai detto in un servizio che è gravissimo quello che sta succedendo a Nardò, ma anche bellissimo. Perché in 10 secondi, perché hai detto che è una cosa bellissima? Gravissimo e bellissimo perché gravissimo sono tutto quello che abbiamo, è tutto quello che abbiamo ascoltato finora. Bellissimo perché dopo 25 anni i lavoratori di Nardò, i braccianti di Nardò si sono auto-organizzati, hanno deciso di far da sé, hanno detto basta e hanno deciso di rompere un sistema che era inveterato e che fino ad allora aveva funzionato così ed è cambiato tutto, a questo punto è cambiato tutto. E staremo a vedere in futuro, naturalmente vi aggiorneremo ancora sull'evoluzione di questa situazione vergognosa che avviene in uno stato di diritto come l'Italia. Ivan Sagné, questo studente camerunense del Politecnico di Torino, ha avuto il merito, anche se poi pagato in prima persona visto che le minacce l'hanno costretto a tornare a Torino, di aver organizzato tutti i suoi connazionali e no tutti i braccianti sfruttati. Lo sappiamo tutti che manifestare è difficile, però tutto quello che di bello in questo mondo si è ottenuto manifestando. Grazie ancora per averci seguito fino a questo punto. 24 Mattino ritorna domani alle 7:15 come al solito. Una radiosa giornata da Irene Zerbini.